Io città ti dico sono le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccomi qua, ben ritrovati, sintonizzati sui 103.100 in modulazione di frequenza. Buona domenica a tutti voi che state ascoltando appunto Radio Città Fujiko. Chi vi parla è ovviamente Franco Paoletti, al di là del vetro invece c'è il nostro immancabile Bolognese Volante. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, anche se la giornata è un po' così, da stare a casa. Non è buonissima, è da stare a casa. Ma la rendiamo buona noi, però. La renderemo buona perché, ci sono tante notizie. Per esempio, il cast del Festival di Sanremo è stato di già praticamente è uscita, finalmente è ufficiale. I cantanti che prenderanno parte a questa importante kermesse musicale, e allora insomma magari ve li snoccioliamo dopo. Nel frattempo appunto noi parliamo di musica indipendente per menti libere. Come sapete, oggi è domenica 4 dicembre, e via via insomma ci accingiamo ad arrivare verso il fatidico Natale. Le strenne natalizie arrivano. Ho ragione, ci siamo, manca poco. Io sto già facendo il countdown, come l'ho detto, countdown. Va bene. Puntata numero 46 e quindi, su 54 settimane, quindi insomma ci siamo stati bravi, anche sempre onnipresente, quasi, fermo restando ovviamente il piccolo break insomma estivo. Vabbè, però insomma agosto, radio mia, non ti conosco, ma no, esatto, ma no, ma poi in qualche modo c'eravamo con degli special, e quindi non siamo era quasi calcio, mai mancato. Ma neanche più il calcio vale quel detto, ma infatti veramente a questo punto direi invece diamo parola ascolto alla musica. Quest'oggi iniziamo con un personaggio che si fa chiamare Godo, nome d'arte di Martino Sghembi. È un cantautore produttore romano, classe 1997, nato a Roma nel quartiere Appio Latino. Inizia insomma la sua carriera artistica come chitarrista e corista in un piccolo quartiere, anzi in un piccolo gruppo, e grazie a un live di una piccola televisione. E poi piano piano da qui è arrivato addirittura a Tale Quale, per esempio, insomma, a lavorare lì. E poi piano piano insomma ha fatto la sua piccola gavetta. Nel 2020 esce il suo primo EP autoprodotto che si intitolava Singoli, e poi da lì insomma una serie di singoli che hanno fatto centro e che ovviamente sono piaciuti sul web, fino ad arrivare a questo singolo che andiamo ora ad ascoltare. Il titolo è... Che lo fa dire a me, stronza? Vabbè. Ricordi di quando giravamo come delle girandole, noi giravamo e ritornavi sugli stessi passi, noi spessi massi cadevamo giù, come che mi dicevi tu, andiamo lontano per mano, lo volevi tu, e cantavo, contavo di stare con te e di volare su. Quando ero bambino neanche ci pensavo, mi sembra strano vedere l'ombra degli errori persi, tornare da dove veniva, ma... E adesso chi ti sopporta è che ti guardo negli occhi, ma troppo caro mi costa. Tu sei proprio una stronza, una promessa che è sporca. Scappa dove ti pare, sarai pure la vita, ma per me tu sei morta. Per me tu sei morta. E allora che se ne importa? Ora che sto crescendo e tutto il mondo corre, soffro ma non mi arrendo, mi sento ancora più forte, e chiedimelo ancora una volta, com'è che mi sento davvero? Sarà chiamata senza risposta. Stronzo anch'io, sì, ma sono sincero. Ah, è molto carina, questa è proprio musica pop puro. Lui si chiama Godo e il brano è Stronza, è proprio così. Dopo Bella Stronza, ecco qui, ormai sdoganiamo anche questa ennesima. Sì, vabbè, infatti. Ormai sdoganata. Vabbè, sdoganata, dai, forza e coraggio. La prossima invece che viene a trovarci si chiama Lavinia e ci presenta Battaglia Navale. Oppala, dopo ce ne parla Paoletti, ci spiega. Vi spiego tutto, non c'è problema. Parte proprio così, con lentezza. Parte piano, piano, piano. Diamo il tempo al suo tempo. Mi avevi detto che saremmo state come due tramonti che non tramontano mai. Ti avevo detto che saremmo state forti, due fogli che non si strappano mai. È più difficile piegare le lenzuola da sola. Mi nascondo ancora dietro alla porta. Aspetto che si faccia notte, che ritorni a casa e farti più. Sono mesi che non ti sento più. Certe volte mi giro per vedere se ci sei, non ci sei. Certe volte non voglio sapere né se ci sei, né con chi sei. Ci sono giornate troppo felici per quelli tristi come me. Risate salate che bruciano. Parole che tagliano, ma in primavera sgocceranno nuovamente i fiori. Il panorama cambierà e diventerà bellissimo. Hai paura e coraggio per farlo nel resto. Stasera affondo giocando battaglia navale da sola. Mi avevi detto che saremmo state come due biscotti che non si inzuppano mai. Ti avevo detto che saremmo state sogni e ricordi che non si perdono mai. Mi tocca prendere di nuovo sto treno da sola. Sto viaggio dovevamo farlo insieme adesso. Scrivo poi cancello, poi ci penso, perso il conto, poi non scrivo più. Poi mi viene un altro déjà vu. Perso nei ricordi, aspetto al nostro posto. I cuori si aggiustano in due. Ci sono giornate felici per quelli tristi come me. Risate salate che bruciano. Parole che tagliano, ma in primavera sgocceranno nuovamente i fiori. Il panorama cambierà e diventerà bellissimo. Hai paura e il coraggio per farlo. Eccola qui, Lavinia Macheda, da classe 2002, cantautrice di Reggio Calabria, impiantata però a Milano, dove studia ancora adesso economia e gestione aziendale presso l'Università Cattolica. Muove insomma i primi passi nella musica a 14 anni, prendendo lezioni di canto nella sua città, e poi piano piano insomma si fa conoscere nell'Interland. L'incontro con il producer Antonio Condell le permette di iniziare un percorso di scrittura e di consapevolezza insomma musicale, fino ad arrivare così a collaborare con l'etichetta Amarena Records, che distribuisce quest'estate il brano Baci Chandonnay. E adesso arriva questo nuovo singolo per lei, Battaglia Navale. Molto bene, mi sembrava una bella canzone, la voce c'è. A questo punto invece, come si dice, se sono rose fioriranno. No, basta con ste rose, che adesso le rose non ci sono, dicevo. Va bene, ma come no? C'è la rosa dell'inverno, per esempio. Ma la rosa dell'inverno sarà Gorizia. No, ma perché? Allora, no, quella forse è la rosa. Sì, la rosa di Gorizia. C'è la rosa giusto, di Gorizia. Ha ragione, è un'altra cosa. È un radicchio. Diciamo che è un radicchio che si mangia, un radicchio particolare come il radicchio di lei, Paoletti. Trevigiano. Vabbè, non avevo fatto subito il collegamento. Bravo, molto male. Comunque. Adesso c'è uno di quei nomi che piacciono tanto a lei. Ribalta Vapori. Poi? Si chiama così e ci presenta Ormai è giovedì. Oggi è domenica, ma è vabbè, ma va bene lo stesso. Precario l'inverno qua, il tuo naso freddo se ne accorgerà, quella sciarpa ancor non sa che la neve è sciolta al di là del mare. Ti sento ancora qui. quest'anno marzo tarderà nel colorare di mandorlo rosa i miei pensieri dispersi in altri emisferi. So che dovrei annegare ogni mio spazio d'umore, ore ed ore sospese. Sepolta lì sulla sedia grattacieli di maglie di io alla sciarpa ho dato l'addio. Ribalta vapori, ormai è giovedì, mentre qui a Radio Safugico è domenica sulle frequenze dei 103.1 FM di Bologna. Esattamente così, che bella canzone languida, vero? Molto così, molto minimalista. Beh, è una canzone minuta, necessaria e raffinata. Ormai giovedì praticamente parla del tempo, di come possa sfuggirci di mano e di come quando non riusciamo ad ad accerchiarlo ci sentiamo appunto dei piccoli naufraghi, per esempio. Allora, perché ribalta vapori? E poi c'è un perché questo personaggio ha voluto chiamarsi così, perché è una cosa tipicamente triestina, andiamo a dire. Ah, questo è vero che è di Trieste. Lui è di Trieste, e sua, quindi è molto mitteleuropeo, e qua ritorna un po' così dopo 40 anni, mi fa quasi impressione, perché si torna a parlare di personaggi friulani, di personaggi anche di terra come di confine, come tanti anni fa c'era Vivien V, Gino Dell'Iso, Angelo Baiguera e tanti tanti altri, insomma. Allora, ribalta vapori, va detto che è una sorta di pesce locale, che praticamente di cui non si butta via niente, e quindi ribalta vapori, e ha deciso questo cantante di chiamarsi così. Mi sembra carino questo scelta originale, questa scelta originale. Sì, che appunto si abbina bene, insomma, mi piace. Bene. Questo è l'anticipazione di un EP che uscirà a giorni per lui, che insomma è metà sardo, metà catalano. Lui si chiama in realtà Antonio Uras, e voi lo conoscerete appunto come Ribalta Vapori, e quindi so già che appunto è già una pop star. È quasi che era a Trieste dalla scelta, sì, che ha fatto in Friuli, e poi insomma si sta espandendo il suo così diciamo la sua suo figura, il raggio di gamma. Bene. Gamma d'azione. A questo punto lasciamo la musica di Eleonora Bianchini lasciamo Ribalta Vapori, e possiamo far ascoltare Eleonora Bianchini e Nenei Santos featuring Mario Venuti. Sentiamo. Mai senza di te non c'è motivo, sai, pochi gli anni insieme a te, chissà perché, un'assurda bugia, vincoli. Schiudo gli occhi lentamente per confondermi. Sempre regalerò anche per te tutto l'oro che ho nel sorridere. Ere meu ere, dormi resta qui con me. E adesso diventiamo poliglotti, perché ere, quella che sentite in sottofondo, è una parola che nella lingua indigena Yoruba significa bambino. Il brano è stato scritto da Lucas, praticamente un artista che purtroppo, insomma, è scomparso troppo presto. Ma a pensare di musicarlo sono stati appunto questo combo, Quando l'unione fa la forza, Eleonora Bianchini, che è di Stanza a Perugia, è nata lì e adesso vive a Boston, dove è un prestigioso dove sta in un prestigioso così in una prestigiosa scuola di jazz, praticamente ha vinto questa borsa di studio, e con lei c'è Nene Santos, che è invece lei di San Salvador, è una multipercussionista specializzata in percussioni afro-brasiliane, che ha già lavorato con Caetano Velenoso, Chico Buares, Cortesia e tanti altri, insomma, personaggi di livello, e con loro c'era, avete ascoltato anche la voce di Mario Venuti, che fa un'apparizione, diciamo. Comunque così, è un brano da sophisticated music, molto molto molto, l'abbiamo suonata e ci vuole un po' di così sole brasiliano in questa giornata un po' insomma brumosa, è così, esatto, non brasiliana ma brumosa. Non brasiliana, esattamente. La prossima invece che arriva, che cos'è, regia? Allora, qui andiamo un po' più sul vivace, diciamo così, sì, questo sì, era vabbè, un andante lento, sì. Vivace, abbiamo i luci al neon al palalottomatica, esattamente. Voglio arrivare al palalottomatica, ma aspetti fuori al palalottomatica, faccio gomitate al palalottomatica, sold out al palalottomatica. Lui Luci al Neon con il loro brano Al Palalottomatica. Beh, è quasi un brano dance, Paoletti. Ma non è dance questo dance rap. A loro piace sperimentare. In effetti questo è un esperimento, grazie a Stefano Bozzi Management, che poi è il loro manager. Loro sono tre ragazze che appunto si sono incontrate e hanno detto anche loro: l'unione fa la forza, perché non fare questo progetto. E infatti questo è un progetto musicale molto interessante nel nostro panorama della musica italiana. Sono tre ragazze che insomma, chi più chi meno, hanno delle competenze nel merito delle percussioni, chi insomma nelle voci, hanno anche bazzicavano nel mondo appunto underground della TV e del rap, insomma delle band più interessanti, e si sono messe insieme per questo gruppo. Devo dire che dopo il loro debutto con Kawasaki, questo è il loro nuovo singolo che sta avendo un discreto successo per quanto riguarda i, diciamo l'FM radiofonico, ma anche consensi nel diciamo non solo nell'FM ma anche via web. E quindi noi abbiamo analizzato questo pezzo sulle piattaforme musicali digitali, esatto, e quindi noi ci siamo incuriositi molto, e devo dire che effettivamente la voce di Chris praticamente è molto interessante, e anche il loro modo di presentarsi è interessante. E per dire, sono al secondo singolo, beh insomma sono da tenere in considerazione, e quindi perché no? Tra l'altro hanno duettato anche con i Tiro Mancino, per esempio, quindi è un gruppo di queste tre ragazze scatenate da tenere sotto controllo, e hanno neanche 20 anni. Complimenti a loro. Intanto bravo che prima ha detto management. Bravo e ho studiato un po', sa. Sì questa notte. Andiamo avanti, Paoletti, va, andiamo e presentiamo la prossima selezione musicale. Lui è Marco Elba, ci presenta Hit Invernale. Invece che estiva, invernale. Ma dove sta scritto che nelle canzoni l'estate deve sempre farla da padrone? Ma dove sta scritto che sempre comunque l'estate è per forza la miglior stagione? Che se ci pensi è sopravvalutata, nei bar non fanno manco la cioccolata. Si dimenticano tutti dell'inverno, anche lui ha dei sentimenti e passa mesi d'inferno. E poi parti per le vacanze che solo a pensarci già manchi di più. Io da solo in questa stanza che non c'è vacanza se non ci sei tu. Pensa che bella una poeta nel bosco mentre fuori è tutto innevato, e noi davanti al fuoco a farci le coccole fino a restare senza fiato. Guardiamo un film magari di supereroi. Pensa che bello fuori stagione girare il mondo con le meraviglie solo per noi. E che ci importa se fa buio presto, ci sei tu che illumini la mia vita e tutto il resto. Che poi il caldo in fondo a che ci serve se ci siamo noi a scaldarci sotto le coperte? Mi spiace ma non ce la faccio io quando ho tutti gli occhi addosso, crollo. Ma sappi non pretendo nulla anche se le mie ansie van fuori controllo. Ricordati lascerò sempre i tuoi spazi nonostante la gelosia. Ma la verità che fa male ti vorrà che a 24 tutta mia. Molto simpatica questa canzone di Marco Elba, Hit Invernale. Sì, è così, e devo dire anche questo è un brano dance. Molto, oggi sì, c'è molta, dance, molta diciamo, musica dance. Vabbè, pop sul dance. Marco Elba nasce a Savona nell'agosto 2000 e poi nel 2021, insomma, pubblica i due singoli d'esordio, ovvero sia Ossidiana e Fahrenheit, seguiti da Squid Game, che in breve tempo è diventato ad alta rotazione radio radiofonica nei circuiti nazionali e poi riscuotono grande successo sulle piattaforme digitali, totalizzando, pensate, più di 1 milione di streaming su Spotify. Nell'estate 2002 invece ottiene numerosi successi attestati tra i vincitori del concorso contesto indie con Un mare di stelle. Dunque, nel 22 luglio vince il prestigioso premio nazionale per la canzone d'autore emergente. Il primo premio, insomma, gli viene consegnato da big della musica italiana, tra cui Massimo Cotto, poi Mauro Ermanno Giovanardi e poi dei La Cruz, ovviamente, Cristiano Godano dei Marlene Kunz e da Paolo Enrico Archetti, il maestro, insomma, degli Yo-Yo Mundi, che saluto ovviamente. Bene. Bene, ultimo brano, già volato alla prima parte. Ah, è già volato. Settimo brano della playlist, sì, della puntata numero 46 di Easy Pop. Annuncio allora, io che è un postico. Dico che c'è Nick the Night Fly, giusto? Sì, bravo. Orchestra con featuring Maggi con I Saw a Little Prayer. I Say a Little Prayer. Molto bene. Quindi un classico natalizio? Sì. Radio Città Fujiko si respira già aria di Natale. E anche di jazz. Nick the Night Fly, che noi conosciamo come personaggio speaker radiofonico e non solo, con la sua orchestra e featuring Maggi, I Say a Little Prayer. Allora vado a dirvi che questo pop raffinato di Bacharach e poi tutto questo screen è tutto contenuto in Hi Mr. Bacharach, pubblicato appunto da Nick the Night Fly Orchestra. È proprio una di quelle chicche da Natale, insomma, natalizia, in cui si respirano tante cover dello stesso Bacharach e poi, insomma, c'è anche l'inedito proprio scritto da Nick the Night Fly, quindi sarà un album di successo. Vi racconto che dentro questo album c'è anche Arthur Svem e poi I Close to You e poi questa I Say a Little Prayer, Still in Love e poi tante altre cover, insomma è un disco da scoprire e da consumare proprio a Natale. Bene Paoletti, adesso cosa viene? Allora, sono le 15:30, direi piccolo break pubblicitario, rientriamo veramente fra pochissimo, non andate via. Sì. Sai qual è la novità? Da oggi puoi avere l'esclusiva Fidelity Card dei centri di terapia ionoforetica. Informati presso le segreterie del centro oppure chiama subito lo 051 314 0488 per attivarla. Ionoforetica Fidelity Card. Entra nel club della salute. Puoi recarti ai centri di terapia a Bologna in via Lemonia 47 oppure a Castelmaggiore in via Gramsci 211. Direttore sanitario dottor Francesco Comerci. A Bologna ci sono più di 800 pizzerie, creative, gourmet, da asporto. Ma se io volessi provare il sapore di una pizza tipica napoletana? Te lo dico io. Se vuoi gustare la pizza napoletana verace, c'è Donna Margherita, in via Lombardia 13C, nel quartiere Savena. E la pizza com'è? Ma stai pazziando, pizzaioli napoletani, forno a legna, ricetta tradizionale e materie prime campane. E non solo questo, ma di Napoli trovi anche l'atmosfera, sempre allegra, che mette buon umore. Wow, mi sta venendo voglia. E allora yam, ya, Donna Margherita è aperta anche per asporto e domicilio. Cerca Pizzeria Donna Margherita sui social oppure chiamalo 051 54 4422. Ventunesima edizione del Festival del Cinema di Porretta Terme, dal 3 al 10 dicembre, con la quarta edizione del Premio Petri e il concorso Fuori dal Giro. L'irriverente e geniale regista Luciano Salce, con 5 film che hanno fatto la storia della commedia all'italiana. E poi il focus dedicato ai film girati in Emilia-Romagna e il primo lungometraggio del regista cult Richard Linklater, inedito in Italia. L'unico evento in Italia per celebrare i 50 anni di Ultimo Tango a Parigi, che torna a Porretta nell'anniversario esatto della sua prima proiezione. Ospite di questa edizione, Fabrizio Gifuni. Per saperne di più, seguici sui social o visita www.porrettacinema.com. Dall'8 ottobre al 27 novembre a Ravenna, la settima biennale di Mosaico Contemporaneo. Opere e artisti di tutto il mondo si incontrano nella città capitale del mosaico per dare vita a un ricco programma dedicato all'arte musiva contemporanea, con esposizioni, incontri, laboratori, convegni e visite guidate. La biennale è realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, del programma PORFESR Emilia-Romagna 2014-2020, città attrattive e partecipate, della Cassa di Ravenna S.P.A., della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, di Romagna Acque Società delle Fonti. Vi aspettiamo a Ravenna. Info www.biennalemosaicoravenna.it. Un vero e proprio luogo d'incontro per chi ha voglia di un drink, ma anche per chi vuole esplorare il mondo della musica e della cultura contemporanea. Gallery 16 a Bologna, in via Nazario Sauro 16A, è uno spazio dedicato all'arte in tutte le sue forme. Live, DJ set, presentazioni di dischi, libri e mostre. Ma non solo, è anche un bar con ampia offerta di cocktail, vini e birre. Se ancora non lo conosci, scoprilo subito su Facebook e Instagram. Cerca Gallery 16 Bologna. Ciao Claudia, ci sei per un giro in centro? Ciao Laura, ah, mi spiace, ma ho un appuntamento con il benessere. Con il benessere? Già, con Beauty Bow. Beauty Bow, il centro estetico super friendly dedicato al benessere. Epilazione laser, trattamenti di estetica avanzata, personale qualificato e disponibile. E ci sono sempre promozioni e pacchetti super convenienti. Dai, vieni con me. Benessere e poi aperitivo. Centro Estetico Beauty Bow, Piazza San Simone 1-2 a Bologna. 351-282-2101. Sotto i portici della Chiesa dei Servi, in Strada Maggiore, l'atmosfera sta cambiando. Torna la Fiera di Santa Lucia e a Bologna si respira di nuovo aria di Natale. Tantissime bancarelle per trovare tutto per un Natale fantastico. Fiera di Santa Lucia, per regalare a grandi e piccini un Natale speciale. La tradizione continua in Strada Maggiore dall'11 novembre al 26 dicembre. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ci siamo, eccoci rientrati dopo il break pubblicitario, siamo rientrati praticamente in quella che è la nostra seconda parte di Easy Pop, musica indipendente per menti libere. E allora così guardando nel mazzo dei nuovi artisti indie, devo dire che sono tantissime le uscite discografiche, noi abbiamo cercato di selezionare e di sottoporre alla vostra attenzione il meglio. Nel frattempo io ho dato un'occhiata veramente alla la lista del prossimo Festival di Sanremo, sa? E allora posso già raccontare chi ci farà? Già adesso, prima di Natale. Lo facciamo più tardi? Più tardi, sì. Ci sono dei nomi, finali. Ci sono dei rumors. Per esempio, ritorna Anna Oxa, lei lo sa, era attesissima, va bene. Quindi saremo curiosi. Chissà chi vincerà di questi qui. Tornano anche Paola e Chiara, ma guarda te. Insomma, ne avevamo anche parlato. Va bene. Tanta musica. Seconda parte per quanto riguarda appunto la musica indie, noi abbiamo pescato questo pezzo curioso. Dunque, si intitola Regia, vediamo. Sono i Lamette con Paracadute. Ti sei mai chiesto perché continui a vivere in un mondo delle favole? Dovresti crescere, forse discutere di quali cose nella vita sono facili e quali no, ma non ti basta. Sono sei giorni che vai avanti ad acqua e pasta. Ma come fai? Senza sostanze, senza qualcuno che ti dica quando basta. E come mai, se perdo pezzi di me, tu perdi pezzi di te, perché? E come mai, se perdi pezzi di noi, sono da solo e non puoi. Mi servirebbe uno psicologo, sì, per capire come stare bene. Nella testa solamente stupide parate e foto da bruciare. Strappami le ali se proverò a volare. Se proverò a volare senza paracadute, cadrò dentro il tuo mare. Di te risconosciute, non sento più gli odori da quando ho respirato il tuo veleno. Pensavo solo a partire, senza far le valigie, senza lasciare un posto sopra quel frigo o dentro quel vestito, che non metti da un po', che non metti da un po'. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Se alla fine del mondo sei tu, non lo so. Mi servirebbe uno psicologo, sì, per capire come stare bene. Nella testa solamente stupide parate e foto da bruciare. Strappami le ali se proverò a volare. Lamette è un progetto nato nel 2020 composto da Vasco Cassinelli e Cristian Pinieri. Il duo piacentino ha debuttato sul streaming ottenendo oltre 400.000 streamer piano piano. Di lui si ne parla molto bene, per esempio Michele Canova, che è un noto producer e curatore del suono, ma non solo, insomma hanno già avuto piccole esperienze nel mondo musicale, tra cui insomma anche X Factor se non sbaglio, e quindi piano piano insomma si stanno facendo conoscere. Devo dire che proprio il loro mercato è proprio il digitale e vedremo che cosa succederà con questo nuovo loro singolo, che insomma racchiude la musica cosiddetta urban, un po' rap e non solo. Intanto si sappia che loro sono accasati all'Aurora Dischi, che non è assolutamente da scartare, da come etichetta, esatto, non mi veniva il termine sottovalutare, perché l'Aurora Dischi in questo momento forse è una delle etichette che più giovanili e più interessanti nel campo musicale appunto attuale. E bene, a proposito di giovanile, riguardo alla mia veneranda età, che chiaramente non si dirà, è un giovinotto, forza, ecco, cosa dice? Tornano in auge una band degli anni 70-80, dico bene? Ma chi sono? Cool and the Gang, con la loro Let's Party! Up to the roof, DJ turn it up, and 3, 2, 1. ci racconti, Paoletti, di Kool & the Gang? Dall'inizio degli anni 70, che è praticamente anni 70. Che la Kool & the Gang praticamente vende dischi, oltre 90 milioni di dischi venduti nel mondo, ma sono bravissimi, con grandi successi come Mica The Kings of the Party, Jungle Boogie, Opa Cézanne, Sesame, giusto, Lady Night, Celebration, ma quanti ne hanno fatti? Sì, guardi, bei ricordi. Vabbè. Con questo nuovissimo singolo si intitola Let's Party, brano di lancio del così anticipatore dell'album che si intitolerà People Just Want to Have Fun, la cui uscita però è prevista nel marzo 2023. Questa è l'anteprima ed è prodotta dal batterista e membro originale delle Kool & the Gang, George Funky Brown, e mette insieme proprio il meglio del Kool & the Gang, ovviamente con i suoni un po' più riarrangiati ai giorni nostri, moderni, sì. Più moderni. La cantante invece è la giovane hitmaker Sasha Jones, che appunto presta anche la voce in alcuni pezzi, in alcuni passaggi, ovviamente sono obbligati. Quindi buone vibrazioni per Kool & the Gang, ottimi annunci, anche perché attendiamo con curiosità questo album dei Kool & the Gang, che ritorneranno insomma alla musica. Mi fa immensamente piacere, come dire, a volte ritornano, giusto? Sì, adesso andiamo avanti. Andiamo avanti con Milano 84 con un featuring Vanessa Ellie, My Love in Tokyo. Atmosfere anni 80, molto anni 80. Spend the night together. Don't tell me now or never. Such a smile, tread the line between oceans. When a plane takes off for me and you, let's dress just silk and black leather. Will we find some old cold weather? I can read now your mind to surrender. Cause you can't have me and that's the truth. Green tea for breakfast, fucking rock. Your brilliant eyes are not so hot. Cause now in this lame got a shelter. Love comes. Mi ricordano un po'. Vagamente, Paoletti. Ma molto vagamente. Vagamente, sì. Comunque, vagamente. Quelli erano. Vabbè, vagamente. Ma vogliamo fare un mishap come oggi? No, ma va bene. Si prendono poi i suoni degli anni 80. Diciamo che questo è un progetto che gioca molto È un progetto che gioca molto con l'Italo Disco, la New Wave, il synth pop proprio dei primi anni Ottanta, per aggiornarli ovviamente a un così a un gusto un po' più nostro, più moderno, più così rivisto e corretto. E i testi sono sempre visivi, melodici, tipici degli anni Ottanta, con la voce supportata di Vanessa Elli, che per la seconda volta fa questo featuring in questo esperimento appunto così di Milano 84, che devo dire insomma piace. È annunciata anche una versione francese, tanto per dire, di questo pezzo, che chissà come potrebbe suonare in francese. Sempre cool il francese. Sì, perché fa più presa, e poi in realtà più loro chic, sono esatto, ma in realtà la cosa comica è che sono tutti italianissimi. Beh, alla ovvio, fine, come quindi, la spaghetti dance. Come la spaghetti dance. Erano tutti italiani. Come la buona spaghetti dance di una volta. Era buona, però dance. Insomma, a volte è difficile ritornare indietro. Quindi sì, insomma, quello che andiamo è stato avanti, dato allora. È dato, e chi ha avuto ha avuto. Allora, alla prossima, Ring of Love con I Love You. Dopo un brano dance, una ballata romantica. What would you think if I told you there are things you can't control? What would you think if I told you things never happen on their own? I listened to your song since I was a child, and I dreamed about you for many nights and nights. Can you explain to me what did you do? Yeah, and if there's a reason to carry on this battle, and I say that I love you, baby, you can tell me it's not true, honey. Yeah, should I try to if I told you you are mine? What would you think if I told you it's not a lie? You're singing this new song not far from my eyes, and that dream is coming true and getting all my life. Can you explain to me what did you do? Ah, che bella ballata, molto bella, molto AOR bella. Come si suol dire, devo dire, un rock ben suonato e ben cantato. Beh, pensate che siamo quasi nella sophisticated music. Ma no, ma perché Ring of Love è un progetto artistico musicale nato nel 2019 con lo scopo di realizzare e produrre musica indipendente grazie alle collaborazioni di artisti che poi provengono da diverse realtà e contesti, per esempio band di altre band appunto, e così via. Quindi sono attivi prevalentemente nella musica rock, insomma quella musicale più insomma più FM oriented, più insomma americana, no? Quindi questo è lo stampo. I Love You è un singolo omaggio di questa band, appunto Ring of Love, che praticamente in questo brano ripercorre i tentativi e la storia insomma del celebre Johnny Cash di conquistare il cuore dell'amatissima Jan Carter, Air, che appunto usciva dal travagliate esperienze di droga e poi insomma si sono lasciati andare, quindi uno è morto prima, l'altra dopo, viceversa, insomma questa è la storia di Johnny Cash insieme a Juni Kata, che viene evocata appunto in questo pezzo. Ma niente tristezza, adesso di nuovo si balla. Ritorniamo di nuovo, sì, guarda, sì, caso, sì, agli anni 80, veniamo risucchiati, come dico io. Sam Redmore featuring Lumi HD, Just Can't Wait, e anche qui si balla. Si balla oggi a Radio Città Fujiko. Oggi è molto scatenato, la vedo scatenatissimo. Sì, sì, sì. Non è che ha mangiato cioccolatini, ha bevuto qualcosa, eccetera. Poi no, quello è il mio ruolo. È la musica. Musicali di bella musica. E allora si chiama Sam Redmore, qui featuring con Lumi HD, Just Can't Wait. Di lui, di questo personaggio, Sam Redmore, diciamo che in questo momento è l'artista più rumors, più così citato, più su cui si discute, e sta dando forma alla sua carriera come una delle così dei personaggi delle persone più eccitanti tra i nuovi talenti del Regno Unito, in quanto lui è un curatore del suono, un DJ che insomma piace tanto, e piace tanto anche suonare e mettere così su disco le sue composizioni. La sua conoscenza del suono è talmente globale, eclettica, che appunto plasma i suoi stili, ricordando anche per esempio Luis Vega, Mr. Scuff, Jill Patterson, tanti di questi personaggioni insomma del mondo musicale. Sam fino ad oggi ha pubblicato 5 singoli molto diversi tra di loro, ma che sono andati tutti in vetta, e adesso affronta un po' questo sound, però non è escluso, tra poco appunto suonerà anche l'afrobeat, l'hip hop, e vedremo che cosa succederà. Bravo Poletti, adesso vieni a trovarci dopo Cool and the Gang. Qui rimaniamo un'altra mondo. Personalità degli anni 80 con il suo nuovo brano Move Your Body. Non dico chi è. Gary Lowe. Danger, danger. Intanto su questo brano saluto Pierluigi che ci sta ascoltando, sì, e ci ha messaggiato. Grazie. Salutiamo, grazie, grazie molte. Ci e fa poi immensamente piacere, no? Il sostegno. Sì, Grazie, Pierluigi. Grazie, grazie. E poi Paoletti, è giunto il momento di ricordare la campagna abbonamenti, no? Della radio, cosa dice? Sì, prima però disannuncio Gary Love, you, no, Move Your Body, era You Are Danger, e poi insomma la colleghiamo. Un mashup, anche questo. È un mashup, no? È il momento dei mashup. Io, sì. Però di lui mi ricordo aveva già dei capelli, ma pochi. Adesso rivederlo così, sì, esatto, insomma, mi fa piacere ritrovarlo con i capelli ancora adesso. Siamo in ritardo. Siamo in ritardissimo, e allora il sito della campagna abbonamenti. Ah, sì, sì, allora, dove lo trovo, regia? Ah, sì, www.radiocittafujiko.it/abbonamenti, troverete le istruzioni per partecipare, insomma, a questa campagna. Ma perché una campagna, Paoletti? Ricordiamo che in questo momento storico è molto importante sostenere una realtà come noi, come la nostra radio, per continuare a dare spazio all'informazione indipendente e alla musica indipendente. Sì, questa è una campagna abbonamenti per Radio Città Fujiko, ci aiuterete così. Se non sapete appunto cosa regalare per Natale, oppure volete farvi un regalo originale, regalate o regalatevi un abbonamento a Radio Città Fujiko. È molto importante un abbonamento a Radio Città Fujiko, è un'idea originale e vitale per mantenere in vita la nostra radio. Sul sito trovate tutte le modalità dettagliate per aderire. Ed inoltre vi aspettiamo anche gli eventi che stiamo organizzando per vederci socializzare dal vivo. Per tutto ciò www.radiocittafujiko.it/abbonamenti. Non esitate, correte ad abbonarvi. Eh sì. Ultimo brano, Paoletti, natalizio anche questo. Ah, sì, sono artisti vari, se stiamo lontano staremo vicini, scoprite chi sono i cantanti. Viene Natale, che freddo che fa, nel fondo del cuore niente più uguale al mondo di prima, a quello che c'era e che ci sarà. Viene Natale, che felicità, nascosta ma dove? Tra un sogno e un dolore, tra il cielo e la strada, in ogni quartiere, in ogni città. Abbracci che abbracciano senza più braccia, e baci che baciano senza più bocca. Pensiero che tocca il tuo cuore e mani non ha. Se siamo lontani staremo vicini, almeno domani, e come bambini vedremo il Natale cosa ci regalerà. Viene Natale, che luce che fa, la stella cometa per molti non brilla, per altri si è spenta, che non è più quella di mille anni fa. Viene Natale, qualcosa non va, la gente per strada si muove smarrita, con gli occhi negli occhi, e cerca un sorriso che non troverà. Abbracci che abbracciano senza più braccia. Allora vi racconteremo prossimamente di questa canzone che a scopo benefico avete riconosciuto chi cantava? Alcuni sì. Alcuni sì, altri, altri no. Va bene, ve ne parleremo magari intanto settimana prossima. Le do una notizia. Sì, ci sono solo due puntate prima di Natale. Natale, sì, allora. E di cui due saranno dedicate come si dice, al... così al Natale almeno al meglio il meglio nostro trasmesse, sì. Ah, sì. Allora che dire, insomma, ci salutiamo qui, no? No, no, assolutamente. La prossima la facciamo ancora con in diretta, sì, poi sì. Le prossime va bene, poi ne vedremo, faremo in qualche modo, sì. Certo. E allora che dire, che con questo brano di artisti vari che non hanno proprio un nome, perché sono troppi, appunto, troppi. Sono troppi. Vi lasciamo, vi diamo l'appuntamento a settimana prossima con noi. Vi lasciamo ai programmi ovviamente di Radio Città Fujiko con Danny Colaucci e poi con tutto il resto. Tutto il resto, insomma, vi ringraziamo con noi. di averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto trascorrere un'oretta spensierata e serena in allegria, che ce n'è sempre tanto bisogno. Rinnoviamo. Sul sito della radio trovate tutte le istruzioni per abbonarvi e per tenere in vita questo importantissimo progetto, www.radiocittafugico.it/abbonamenti. Trovate anche tutte le puntate nostre e di tutte le altre trasmissioni di Radio Città Fugico. Esattamente, quindi rinnoviamo l'appuntamento fra 7 giorni. Bye bye da Franco Paoletti e dal bolognese Volante. Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fugico. からだ鋼鉄